A bordo campo di Dario Ricci. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette. 10 anni fa è salito su una bici da corsa e da allora non ha mai smesso di pedalare, direi prendendo alla lettera il suggerimento di Frankie High Energy, che della sua canzone ha tra l'altro fatto anche l'inno ufficiale del Giro d'Italia, che ormai fra pochissime pedalate prenderà ufficialmente il via. E di bicicletta, quindi, e del suo personalissimo rapporto con le due ruote, che è diventato anche davvero un bel libro, parliamo oggi con il nostro ospite. Benvenuto a Radio 24 e a Bordo Campo, a Giacomo Pellizzari. Ciao, ciao a tutti. Allora, Giacomo, 41 anni, come dicevamo, 10 anni fa è salito su una bici da corsa e ancora non è sceso, e quindi vuol dire che un po' di gusto l'ha provato, contraendo, leggo dal suo libro, che adesso vi presento, una pericolosa dipendenza per le salite alpine, anche per il giornalismo, perché sei stato direttore editoriale di Bike Channel, e poi soprattutto sviluppi, Giacomo, un blog, Confessioni di un ciclista pericoloso, che è tra i più letti dai cicloamatori. Ora, toglimi subito una curiosità: perché pericoloso? Non è perché fai zig zag in mezzo alla strada e poi date sempre la colpa a noi automobilisti se succedono i fattacci? No, no, niente affatto. Questa è una domanda che mi fanno spesso. Pericoloso per sé e per gli altri, perché è dipendente dalla bicicletta, proprio come fosse una forma di tossicodipendenza. Ecco, beh, no, assolutamente, per carità, viviamola nella maniera più sana, però vi confesso che Giacomo, anche nel venire qui a trovarci in sede, in redazione qui a Bordo Campo, ha detto: ah, sono venuto in metro, però volentieri, a saperlo, una passeggiatina in bici me la sarei fatta, e quindi vuol dire che proprio diventa quasi un utensile quotidiano, sì, tipo le posate, tipo la forchetta, dai. Esatto, sì, o il telefonino, insomma, siamo lì. Beh, insomma, tanto quotidiano il rapporto che Giacomo Pellizzari ha con le due ruote, che questo legame è diventato un libro. Ma chi te lo fa fare? Sogni e avventure di un ciclista sempre in salita, prefazione di Francesco e Moreno Moser, pubblicato da Fabbri Editori. Ecco, lettura assolutamente imprescindibile per gli appassionati delle due ruote e non solo. Perché? Perché c'è questo dialogo con la bicicletta e anche con la salita, no? Perché spesso il cicloamatore la salita la corteggia, la desidera, al tempo stesso la teme, perché è pane duro, no? Se non hai le stimmate del professionista, tu l'hai scelta un po' come vocazione, no? Ma probabilmente anche per una questione fisica, perché peso 55 kg e sono alto 1,70. A me viene facile. La cosa che mi imbarazza è che quando vado poi con degli amici che magari in pianura vanno molto più veloce di me perché sono più grossi, e in salita mi guardano storto perché dicono: io sto morendo di fatica, questo qua ne fa la metà di me, non è giusto. Come se io salissi senza lo zaino di 20 kg che magari hanno loro. Quindi forse anche per questo ne ho fatto un po' una vocazione. Ma toglimi un'altra curiosità: poi finito l'allenamento o l'escursione, pareggiate tutti i conti a tavola con una bella mangiata, oppure mantieni rigorosamente dieta in linea anche una volta sceso dalla bici? Questo è l'altro tasto dolente per cui tutti mi invidiano. Io per costituzione ho un metabolismo molto accelerato, per cui bevo e mangio ai quattro palmenti, come senza seguire diete particolari. Quindi poveracci quelli là, gli altri sono veramente, gli altri insomma con forma simil prodi, per carità, esatto. Per capirci, da appassionati della bici, ma insomma un po' là sia con gli anni sia anche un po' con la pinguetudine, e tu invece sei magro, ti mangi di tutto e gli stacchi pure in salita. Sì, poi magari loro mi staccano in discesa o in pianura, ognuno vabbè, ha... però vuoi mettere la soddisfazione, dai. Comunque ci sono diversi colleghi ciclisti che sono assolutamente in forma fisica perfetta, non tutti hanno la pancetta ansia. Quindi insomma non sì, è che sì. No, perché spesso la bici è la giustificazione poi per tutto il companatico, e allora beh, a quel punto c'è chi pedala per quella ragione anche. Che è dignitosissima, noi certo, qua a Bordocampo sì, la difendiamo, anche perché è importante costruire una cultura del rapporto con lo sport, poi chiaramente anche il benessere è importante. A proposito di cultura con la bici, tu 10 anni fa sei salito in sella, come è nato questo amore? Per puro caso, mia moglie il giorno del mio compleanno avevo parlato con un amico di bicicletta, dice guarda che bello, oggi sono andato in bicicletta, eravamo in Liguria fino a Portofino, e dico cavolo, ma non è pericoloso, vedo tutti questi qui che vanno, ma va assolutamente, impari, stai dietro, stai sulla destra, ti attieni alle regole, ed è un modo bellissimo per vedere i posti che prima hai visto in macchina, perché ti cambia completamente la prospettiva. Mi mette la pulce nell'orecchio e mia moglie lo capisce e mi fa comprare così, di punto in bianco, il giorno del mio compleanno, una bicicletta giallo limone che era piuttosto bruttina, e io inizio a pedalare con quella senza la minima convinzione, con queste scarpette che rimangono agganciate ai pedali, oddio, e quando mi fermo cosa succede? Quindi sei partito proprio dal top, nel senso subito vestito di tutto punto, non è che... Sì. Insomma, cioè, non è che c'è stato un avvicinamento graduale alla vetta, cioè sei nato sì, ufficialmente dal primo giorno subito ciclista semiprofessionista. Insomma. Sì, sì, proprio l'ho presa da subito come uno sport. A me piace quando faccio una cosa dico, farla bene. Tra l'altro adesso gareggia anche con una squadretta, no? Sì, sì, io come molti cicloamatori faccio queste gare che si chiamano Gran Fondo, che sono delle gare amatoriali che sono un po' in tutta Italia, e per partecipare bisogna essere iscritti a una società sportiva, avere un tesserino regolarmente rilasciato, che viene rilasciato soltanto se si è fatta la visita per l'agonismo, che è una visita in cui viene fatto un approfondimento, non diciamo il certificato di sana e robusta costituzione, ma qualcosa di un po' più approfondito. Chiaro, chiaro, insomma, perché anche perché comunque l'allenamento che si fa pure da semi-amatore, insomma, è un pochino più articolato, un po' più sì, strutturato, no? Sì, esatto. Senti, dicevamo però... Vedo qua l'indice dei capitoli di... Ma chi te lo ha fatto fare? Valcava, Cesenatico, Corbara, Isère, Lato A, Lato B, Bonus Track, Monte Campione, Cepina Val di Sotto, Milano, San Leonardo in Passeria e Solden. Ecco, questi titoli dei capitoli, e soprattutto metto in guardia gli ascoltatori dal fatto che anche quelle tappe che sembrano di pianura sono tutte in salita, no? Di pianura con la bicicletta ce n'è poca, e poi soprattutto è noiosa. Ma sì, è tutta uguale, non è sfidante, poi c'è il vento contro, è un po' un companatico, diciamo, piatto forte la salita. Ecco, nasce però anche un rapporto con i luoghi, con le città, mi viene in mente Cesenatico, e devo dirti, tu in qualche modo sembri anche somigliare, no, a quel Marco Pantani che del nostro ciclismo è stato... controverso ma amatissimo campione. Ecco, attraverso la bici ripercorre anche delle storie umane, delle tue storie personali, dei tuoi momenti. Ma io ho scritto questo libro perché mi sono accorto che la bicicletta non era solo uno sport per me, ma era diventato un modo di vedere le cose. Mi aveva cambiato e mi aveva fatto conoscere sia i posti sia le persone che già magari conoscevo in un modo completamente diverso. Come se proprio fosse una lente o deformante, o a me piace dire formante, attraverso cui guardi le cose proprio da un'altra facciata. E quindi sì, io è uno strumento di ricerca sia delle cose esteriori sia delle cose interiori mie. Quando faccio una salita in bicicletta mi capita di passare attraverso tantissimi momenti, i primi 3 chilometri dove vorrei buttare la bici perché faccio troppa fatica e dico non ce la farò mai a farne altri 15 di salita, e invece poi magari gli ultimi in cui hai raggiunto quel perfetto equilibrio in cui la fatica l'hai sublimata in piacere e andresti avanti per altri 20. E ti dispiace che sia finita, no? Esatto, magari. Esatto. Percorri una strada in macchina e te ne fai un'idea. poi la percorri in bici e cambi idea. Questa è una frase non tua, no, ma è proprio la frase che apre il libro ed è di un certo Eddie Merckx. Esatto, il cannibale. Quindi è proprio a esprimere questa filosofia, sì, che poi ti ha spinto sulle due ruote, no? Come ricordavamo. Sì. Non è bellissima, io la trovo una frase meravigliosa che dice tutto. Che cultura della bici c'è in Italia? È un vediamo quanto sia difficile riempire le nostre strade con piste ciclabili, vediamo quanto sia difficile creare una convivenza accettabile con gli automobilisti e le automobili, refrattari anche ai podisti e ai runners, lo dico per esperienza diretta. Insomma, facciamo fatica ad ampliare la nostra cultura sportiva e ad accettare che le nostre strade ospitino in sicurezza anche le due ruote. Da questo punto di vista, questo libro che messaggio dà e qual è la tua esperienza diretta? In Italia c'è molta passione per la bici e molto entusiasmo. La usa lo sportivo, la usa la signora che ci va a fare la spesa, va a prendere i bambini a scuola in bicicletta, ce n'è sempre di più. Però c'è poca cultura. Come un po' in tutte le cose, noi italiani facessimo fatica ad organizzarci, si fa tutto un po' in maniera un po', come dire, improvvisata. Io vedo le piste ciclabili che ci sono nelle città, si vede che sono pensate poco realmente per aiutare i ciclisti, sono più fatte un po' come compitino, dire: avete visto che ho fatto questi metri, chilometri di piste ciclabili? Eh sì, il politico di turno che dice: e allora abbiamo 50.000 chilometri di piste ciclabili. Sì, ma sono 40 chilometri dal centro, quindi stanno quasi in un'altra provincia, insomma. Esattamente. Però siamo arrivati a un punto in cui il numero di persone che usano la bici per i più svariati motivi è eclatante, insomma vengono vendute più biciclette che automobili in Italia, e questo è un dato da cui non si può prescindere. Io questo che credo che sia quella cosa che manca ancora all'Italia, perché per quanto riguarda invece l'entusiasmo e la voglia, persone che vogliono fare fatica e che scelgono la bicicletta come mezzo di trasporto sono sempre di più. A me, quando vedo questi genitori che portano i bambini a scuola, mi emoziono, cioè dico, in bicicletta. Un'ultimissima domanda, Giacomo, prima di lasciarti ad una nuova pedalata: qual è la prossima tappa che ti appresti a fare? La salita che devi ancora scalare e che hai già nel taccuino? La salita, più che una salita, è una gara, si chiama Ozzaler Rad Marathon, è una gara che si corre in Austria il 31 di agosto e che, come ho scritto nell'ultimo capitolo, non sono ancora riuscito a fare. Nell'ultimo capitolo spiego perché ero lì per farla e non l'ho fatta. Austria, qua mi sa che ci sono altre salite. Ciao Giacomo, ti saluto. Ciao, io a vado, tutti. Vado in pianura piano piano e ti ammiro e ti leggo con grande piacere. Grazie per essere stato oggi nostro ospite qui a Radio 24 e a Bordo Campo. Ciao, grazie, buona giornata anche a voi. L'hai voluta tu la bicicletta, più fretta. A bordo campo di Dario Ricci. Per fortuna che ho la bicicletta, almeno mi allontano un po' dall'autostrada del sole, o dal raccordo anulare, o dalla fila nel metro. Tornerò solo quando sarò stanco un bel po'. E allora, se siete innamorati della bicicletta, innanzitutto vi stiamo regalando qui a Bordo Campo una bella puntata dedicata alle due ruote, ma vi regaliamo anche un suggerimento: oltre a prenderle queste due ruote quando e più vi piace, il suggerimento, l'idea è anche quello di farvi un bel giro su un social network, su Instagram, all'account in particolare, diciamo all'indirizzo _ divano letto. Lì lì troverete quello che è forse il bike blogger in questo momento più famoso d'Italia e non solo, e che oggi è ospite qui a Bordo Campo. Benvenuto Nicolò De Devitis. Buonasera, ciao Dario. Allora Nicolò, perché sei diventato il bike blogger? Insomma, prima di tutto spieghiamo cos'è un bike blogger. Esistono nella rete i fashion blogger, quelli che bene o male danno dei suggerimenti sullo stile, la moda, come vestirsi per aver successo, eccetera eccetera. Tu ti sei trasformato in un bike blogger, quello che dà quasi dei suggerimenti sulle biciclette del cuore, no? Esatto, sì. Io praticamente mi sono inventato, come hai detto te, questa idea di bike blogger, sia per contrapporsi ai fashion blogger, consigliando una foto di tutto il mondo, quindi consigliando anche dei posti un po' unconventional, un po' giusti da visitare, attraverso l'uso della bicicletta. Quindi la bici è anche un pretesto per raccontare il contesto che c'è intorno. Diciamo che tu, per raccontare le città, parti dalle biciclette che vi trovi, no? Perché esatto, su underscore divano letto troviamo ogni giorno la fotografia di una bicicletta diversa in una città diversa del mondo. Sì, poi sono biciclette incontrate per caso, quindi non è che io prendo e le sposto, sono tutte biciclette trovate, appoggiate al palo fuori un forno o più che altro vicino a un museo, che mi colpiscono. Quindi non è che le fotografo tutte, ci sono quelle giuste, come quando tu incontri una bella ragazza per strada, no? Ti giri, ma cioè non sai, ti giri perché ti colpisce. Io uguale, quando passo vedo una bicicletta, mi fermo e scatto quella che per me è giusta, per me è la modella del giorno. Beh, tra l'altro, da quel che so, si incontrano pure le biciclette, ma pure le ragazze, no? Perché ogni tanto qualcuna ti ferma e tutto sommato il bike blogger ha il suo fascino, no? Sì, esatto. Mi dicevi che proprio fuori da un forno di Roma è successo un happening, dai. Sì, c'era una ragazza che niente, ha visto che fotografavo, mi fa: ma tu sei di Vano Letto? Allora abbiamo iniziato a parlare e poi abbiamo fatto un giro in bicicletta. Ah, però tutto là, niente. Tutto platonico, vabbè, ma insomma, non diciamo, non svegliamo in onda tutti i particolari del tuo blog e affini. Senti, tante città del mondo, anche perché tu con la bicicletta spesso in spalla viaggi, no? Per sì, incontrarle, diciamo che in qualche esatto, modo faciliti questi appuntamenti. Sì, sì, sì. Sì, io come ho detto, ho una bicicletta pieghevole, piccolina, che mi porto appresso nei miei viaggi, però non la uso mai per fare le foto, cioè la uso solamente per girare, quindi tutte le foto che troverete nella pagina non sono mie, sono tutte di... Quindi anche c'è anche un'idea romantica, no, di immaginare di chi sia attraverso, cioè, insomma, rivedi una bicicletta un po' arrugginita, ti immagini il proprietario o la proprietaria, che possa essere, cosa stia facendo in quel momento in cui ha abbandonato la sua bicicletta in quell'angolo. C'è anche, di fatto, oltre al blog, c'è anche in nuce l'idea poi di farne quasi un libro, perché ogni bicicletta è una storia del proprietario, ma poi è una storia di tutti noi, perché con la foto la condividiamo. Sì, no, esatto, cioè raccontando anche, che ne so, una bicicletta appoggiata vicino alle poste, si possono anche accorpare insieme a qualche poesia, si possono fare molte cose, secondo me. Adesso piano piano ho dei progetti in mente, vediamo un po' che ne viene fuori. Beh, tra l'altro il blog già sta attirando qualche personaggio famoso che l'idea che hai avuto la sta sostenendo e sposando, no? Sì, esatto, sto lanciando questa campagna, io lo chiamo Eco Contest, diciamo, in cui dei personaggi famosi sensibilizzano le persone ad andare in bicicletta, facendo un piccolo video, perché i tempi di Instagram sono corti, quindi un video di 10 secondi, 15 secondi, o una foto del mio adesivo. Dove tra l'altro l'adesivo che ho fatto c'è il nome di Vano Letto in piccolo scritto: il vero figo va in bicicletta, quindi supportando questa questo questa l'adesivo idea. lo voglio assolutamente, poi appena finita l'intervista ti do gli indirizzi, okay. Mi devi mandare questo adesivo tutta la vita, insomma. E loro fanno per ora, hanno aderito Claudio Amendola, Algerini, diversi, ora alcuni non ancora non li ho pubblicati, quindi non ti svelo. Però ce ne sono diversi che stanno supportando queste idee, e poi tutto ciò è pazzesco, perché comunque io gli scrivo una mail semplicemente, poi mi rispondono e ci incontriamo e facciamo questa piccola foto, quindi sono anche contento, perché vedo un riscontro da parte di persone che hanno da fare certo. Beh, insomma, qualche VIP fa sempre. Sì, poi è sempre le prese con la Roma. Sì, quest'anno, sì. Insomma, è impegnativo seguire la Roma, visti gli ottimi risultati. Devo dire che al di là dei VIP, però, fa scalpore il numero dei follower comuni. Nel momento in cui parliamo, quanti sono su per giù? Sono 30.100, 30.000, sì, qualcosa su per giù. E quindi già mentre parliamo stanno aumentando. Quindi, certo, sì, cifra. Sì, li vedo che salgono. Cifra puramente indicativa. E quindi, insomma, si è creato un po' un movimento d'opinione intorno al tuo blog. Sì, dai. Sì, c'è proprio un interesse. Ma allora, comunque io vorrei anche trasmettere, cioè il VIP, anche loro stessi sono un pretesto per far vedere, quindi per invogliare la gente a usare la bicicletta. Secondo me il problema è anche, come dire, la cultura, cioè il rispetto che, come magari possiamo vedere nel nord Europa, città come Berlino e Amsterdam, c'è, che in Italia non abbiamo. Però piano piano si sta sviluppando, cioè pensiamo che il nostro Presidente del Consiglio, comunque dove c'è lui spesso c'è anche una bicicletta, quindi questa cultura secondo me piano piano ci possiamo arrivare. Sempre diffidare delle biciclette dei politici, perché se le fanno portare lì a portata di mano per entrare nei blog. Senti, tu che hai girato e stai girando ancora parecchio, la città più a misura di bicicletta che hai trovato? Berlino ed Amsterdam a pari merito, diciamo. Mm-hmm. Però e c'è anche Copenaghen, che ho scoperto che c'è un filone di pensiero, si chiama Copenaghen Eyes, che è un'associazione in cui vuole portare l'idea di Copenaghen, quindi il rispetto per la bicicletta, in tutto il mondo. Quindi cioè, sono anche a Roma, una piccola, diciamo, tra virgolette, filiale, in cui spanno il pensiero di Copenaghen. E invece in Italia, tu a Roma con i San Pietrini è un po' complicato, è un po' un macello. No, qua a Milano ci abbiamo i tram, che sono complicati pure quelli con le rotaie, però dei passi avanti li stiamo facendo. Qual è la città che finora hai trovato più appunto adatta alle due ruote? Guarda, Milano. Milano, a sorpresa. Non ci crederai, anche Napoli, sono tornato la settimana scorsa da Napoli, tant'è che adesso De Magistris ha appoggiato un progetto di bike sharing che partirà a settembre, lì ci sono delle piste ciclabili pazzesche, ci sono un sacco di punti dove poter affittare le biciclette, poi ecco, Napoli pure si presta, perché magari Roma con i Sette Colli non è proprio adatta, certo. Però Napoli, a meno che non sei nella parte sopra, quindi al Vomero, ma se sei sul lungomare, zona via Toledo, zona bassa, comunque è tutta pianeggiante, quindi si può... Cioè, il problema è anche poter adattarsi. Poi c'è Bologna, vabbè, che è la città per eccellenza, insieme a Ferrara. Certo, comunque, perché c'hanno pure gli archi, quindi se piove ti rifugi sotto. Insomma, ci abbiamo qualche città da lanciare nella classifica. E invece nel mondo, quella invece che proprio più restia la bici? Per quella più restia? Sì. Quindi che proprio non se ne trovano? No, guarda, ti dico, più o meno la bici è una cosa che si trova ovunque. Cioè, ti devo dire, io nei posti che ho viaggiato, quindi da partire dall'America fino all'Asia, l'ho sempre. Difficilmente adesso, quando sono stato quest'estate nelle Filippine, a Manila ce n'erano poche. Però ce n'erano. Comunque c'erano anche le persone che ci lavoravano, perché comunque non si possono magari permettere dei mezzi di locomozione a motore, utilizzavano la bicicletta, che ne so, con i cassoni davanti e dietro, e portavano la roba in giro. Quindi comunque la bici, io ovunque sono andato, per ora l'ho sempre trovata. E allora, Niccolò De Devitis, in bocca al lupo per queste tue avventure a due ruote, e l'augurio è quello di trovarne davvero tante tante altre da raccontare su Instagram, sul tuo blog _ cioè _ divano letto. Trovate ogni giorno le foto di Niccolò, delle sue biciclette, ne troverete qualcuna anche sul nostro sito, su radio24.it, sulla pagina di A Bordo Campo. Rapidissimamente, facendo la volata a due ruote, prossima meta, Niccolò? Prossima meta a Bologna, poi dopo te ne dico un'altra, a Berlino. Oh, quindi ritorni sul luogo del delitto a due ruote. Sì, esatto. E allora davvero una buona pedalata, e a prestissimo anche ti rivolgiamo qui a Bordo Campo. Ciao Dario, grazie mille, un saluto a tutti. Anche per questa puntata di A Bordo Campo è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito radio24.it, da dove potete anche scaricare il podcast del nostro programma, e potete scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. Ora linea che va a tutti i convocati weekend. A Bordo Campo torna domenica prossima sempre alle 16.30 e in replica il sabato mattina alle 6.15. Una buona giornata da Dario Ricci.